Mi sono rotto, io mi sono rotto, non ho più voglia di abitare lo stivaletto, non ha più senso rimanere, grazie di tutto, aspetto ancora fine mese e poi mi dimetto. E tanto il mio lavoro inutile, diciamo futile, essenzialmente rimovibile, sostituibile, regolarmente ricattabile, il mio lavoro è bello come un calcio all'inguine dato da un toro. Il mio lavoro è roba piccola, fatta di plastica, che piano piano mi modifica, mi ruba l'anima, dice lavoro rende nobili, non so può darsi, sicuramente rende liberi di suicidarsi. E io mi sono rotto, io mi sono rotto, non ho più voglia di abitare lo stivaletto, non ha più senso rimanere, grazie di tutto, aspetto ancora fine mese, poi mi dimetto. Precario il mondo, flessibile la terra che sto pestando, atipica la notte che sta arrivando, volatile la polvere che si sta alzando. Precario il mondo, non è perenne il ghiaccio e si sta sciogliendo, non è perenne l'aria e si sta esaurendo, ed indeterminato c'è solo il quando. Precario il mondo, ma sembra ancora più precario questo stivale che sta affondando dentro un cumulo di borgheria, e quelli che l'hanno capito vedi vanno via, e invece tu non l'hai capito, tu non l'hai capito, e stringi i denti dietro un tavolo dentro un ufficio senza nemmeno avere il tempo di guardare fuori, così non vedi che già cambiano tutti i colori. A te la gente si agita, si muove sempre, qualcuno grida una protesta che nessuno sente, non c'è un futuro da difendere, solo il presente, e anche di quello di salvabile c'è poco o niente. Amore mio, non ci resisto, io non ci resisto, vorrei convincerti a raggiungermi ma non insisto, tu riesci ancora a non vedere solo il lato brutto, io invece ho smesso e devo andare, grazie di tutto. Si sta esaurendo ed indeterminato c'è solo il quanto.